Beh, insomma, in questi giorni si sta parlando e si sta utilizzando soprattutto una frase che secondo me al 99% degli italiani è assolutamente incomprensibile, cioè dire il forno, la politica del doppio forno. Era una frase in politichese degli anni 60, degli anni 70, quando c'era la Democrazia Cristiana. È quello che si rimprovera oggi all'UDC, cioè il fatto di essere alleato del PDL in alcune regioni, alleato del Partito Democratico in un'altra regione. In Puglia adesso c'è la candidatura autonoma di Adriana Poli Bortone e dunque addirittura è spuntato il terzo forno. Sentite. Si lamentano sempre gli amici PDL, anche la Russa, del fatto dei due forni. Almeno in questo caso saremo tutti contenti che i forni sono tre. Un altro forno? Ma se ce l'ho già! Ma non lo usi mai, questo è sforna tutto. Il terzo forno uno se lo deve aprire quando vuol cuocere il suo pane, non quando gli altri non gli vendono più il proprio pane. Non ho scelto un forno o un altro, ho aperto un mio fornellino umile. E lasciatemi il fornellino umile che abbiamo aperto, madonna mia. Termostato, timer, selezione cotture e grande novità, luce interna. Sforna tutto, ma sei sicuro? Due forni non vanno La bene, tre verità. forni non vanno bene, mi viene il dubbio che per voi vada No, bene l'unico vanno forno, cioè il benissimo. vostro. A noi andrebbe bene che tu scegliessi il terzo forno a prescindere, non Scegliessi. a seconda della sconfitta o meno. Vendola voleva dire Ma qualcosa quel sui candidato. forni. Sento per la signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Guarda, pan pei suoi tent. I forni, gli incomprensibili forni offerti agli italiani a porta in una discussione surreale sui fornellini, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto forno.